soffri. Omaggio ai lavoratori. Vabbè. In bergamasco. Beh, quelli lavorano, Loro lavorano anche il primo maggio. Come noi. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo. Un saluto da K. E un saluto da Drago. È la CGL che mi ha fatto come sono. Mi sento delle cose sottofondo. Vabbè, comunque, buon primo maggio a tutti. Certo, buona festa del lavoro a tutti. Avercelo il lavoro. Beh, allora buona festa della disoccupazione a tutti. Sì, o della cassa integrazione. O dell'esodazione. Tito! Cosa c'è? Ma cos'è esodazione? Sì, i fiumi? No, è la nuova parola d'ordine. No, non è esondazione, è esodazione. È la nuova parola d'ordine di tutti i TG. Gli ha dato un'etica. Chi è che parla? Ma cos'è sta? I sindacalisti forse, non lo so. Comunque, proprio gli esodati, parola nuova, no? Anzi, non è gli esodati, è... Gli esodati. Gli esodati. Che poi non si capisce come mai nascono certe parole, no? Tipo, siamo mica in epoca di D'Annunzio. I neologismi esistono sempre, in questo caso non lo so. Fino alla riforma del lavoro della Fornero, nessuno mai aveva detto prima. Gli esodati. E adesso invece è diventato tutto un... Gli esodati! Forse deriva, non so, dalla parola esodo, quindi sì, non so, ma comunque è una parola nuova, qualcuno ha la responsabilità di averla inventata, vabbè, no? Ma alla fine chi se ne frega? Sì, chi se ne frega. Quindi buon primo maggio a tutti, che lavoriate o che siate disoccupati. L'augurio vale per chiunque in questo momento, invece di fare altro, sta ascoltando quel che succede qui all'asilo Stoppani. E qui cosa succede? Qui, insomma... A quel lontano 9 novembre 44. Qui c'è sto qua che parla, che non si capisce. Ma piuttosto andiamo a vedere che cosa succede in tutte le capitali del mondo in questo momento. Quello è più interessante. Primo maggio, per guardare qua nel nostro cortile. Dappertutto. Allora, abbiamo in linea Berlino. Quindi sentiamo signora, Berlino. La signora Merkel da Berlino. Scusa, ma sei sicuro che siamo in diretta? Ma certo. Ma scusa, qui è Honecker, il vecchio leader della Germania Est, che lui di primi maggio se ne intendeva, perché scusa, ha detto Deutsche Demokratische Republik. Tu sei così sensibile. Honecker. Poi come Honecker? Guarda che Honecker, poi tra l'altro Honecker da un bel pezzo che è morto. Ma e allora chi era, scusa? Parlava della Repubblica Democratica Tedesca. Ci sono problemi sulla linea. Pietro, tutto a posto la linea? No, poi si infila Charles Aznavour. Ma forse è per quello che c'è quel problema sulla linea. Ma tu sei sicuro fosse Honecker? Ma sì, secondo me sì. Comunque dai, facciamo così, cambiamo, andiamo sulla piazza di Mosca, la piazza rossa, gremita fino all'inverosimile oggi, vero? За ослабление Autoestruttive di Putin. Ma che Putin? Ma scusa, ha detto repubbliche socialiste sovietiche. Vabbè, adesso parli anche russo. Ma Drago, si è sentito, no? Non so, chiediamo alla regia di controllare il collegamento. Non capisco cosa stia succedendo qui a Radio 24. Comunque, vabbè, mentre la regia cerca di risolvere il problema, invitiamo i bambini all'ascolto a continuare a lavorare sui video didascalici del bambino Alberto. Charles, ma è lui che si infila. Vabbè, finora ne abbiamo ricevuti tre. Tutti bellissimi. Io me ne ricordo due. Il terzo, dai, dimmelo tu. Il terzo è volentierissimo. Cioè, volentierissimo, Lampascione. Volentierissimo, didascalissimo. Vabbè, comunque ci si può cimentare in grandi classici come, non lo so, L'Orfanello, Finocchi Cotti. Quindi dai. Dai, avanti, aspettiamo i link ai vostri video. Ai vostri video. Sulla nostra bacheca di Facebook. Quando dico queste parole giovane, tipo Facebook. È giovane Facebook, ma abbastanza. Sì. Non come Twitter, ma. Nell'aria si insinua un profumino, mi stuzzica il naso, ma cos'è? Sa un po' di letame, mi viene una fame immensa, aspetta, non me. Eccomi in fila ad aspettare, si fanno scommesse sul menù. Chi dice fagioli, chi dice banane, ciliegie, biscotti, coniglio di cane. Ma il cuoco in vacanza, c'è una sola pietanza. Finocchi cotti, finocchi cotti, finocchi cotti per me. Per me, per te e per tutti voi. Perché i finocchi cotti sono un fatto collettivo. 47.000 euro alla settimana. E cos'è? Alla faccia della festa del lavoro, 47.000 euro alla settimana. Ma cosa sono? Cos'è? La paghetta che Roby Karim El Jabbar, non so come si chiama, Wayne Jabbar, riceveva da Mr. Burlesconi, scritto Burlesconi, si pronuncia uguale, ai tempi d'oro della loro amicizia, quella della macchina esfoliante. Ma scusami, questa tu la chiami paghetta? Minorenne, ai minorenni si dà la paghetta. Ma si dà la pagona, in questo caso è una paghettona. A sua insaputa, no? Di chi? Ma non importa, devi ridere, no? A sua insaputa fa ridere. Ah, a giusto, sua insaputa fa sempre ridere. La signora Margherita Hack. Maremma Maiala! Ecco, che di mestiere vede le stelle. Le stelle, Maremma! Vorrebbe far vedere le stelle anche a quelli della motorizzazione. La motorizzazione, Maremma Maiala! Non vogliono rinnovare la patente per sopraggiunti limiti di età, sai, non è tanto della giovane. La patente della macchina. Certo, l'auto. Quale se no? No, pensavo quella delle astronavi, no? Questo è molto divertente. Daddy. Hey, Daddy. What the day? La regia, nella la regia? Persona di... Dimmo, non lo so, Pietro la Corte, dice che è finalmente in grado di collegarci con Roma. Dove è in corso il concertone del primo maggio. Dai, noi siamo qui all'asilo, insomma. Pietro, sei in grado di sentire quel che succede a Roma? Vai, sì, Pietro. Ok, vai con la linea, vai. Pietro, andiamo. Mi ha dato una cultura, anche. Mi ha dato un'etica, un'educazione sociale e politica. Divenute le ghiaccio quello di prima che era una parte inscindibile della mia persona. C'è il pubblico, il concerto del primo rock, maggio. Rock. Che si festeggia il gruppo c'è rock. Io sono ritornato con la memoria a quel lontano 9 novembre 44. Sai chi è secondo me questo qui? Chi è? Luciano Lama, scusa. Lama? Sì, Luciano Lama. Ma chi? Quello delle Ande? Ma non quello delle Ande, il sindacalista, quello degli anni 60, 70. Vabbè, ma anche Lama, come Honecker, come Brezhnev, come Ceausescu, sono tutti quanti? È morto. E che cosa ti devo dire? Evidentemente abbiamo evocato degli spiriti, degli zombie. È un primo maggio degli zombie. Sì, questo. Ma anche la lista dei partecipanti a il concertone del primo maggio sembra una lista di zombie. Perché? Cioè, a parte i Litfiba, che non so se ci sono, ma gli Alma Megretta, sì. Sul Sound System, beh. Marina Rei, Mauro Pagani. Ma ti sembra un concerto del 2012? Beh, in effetti. Meglio Lama. Chiedo asilo! Tenente Drago! Ha sentito anche lei? Ma no, non è possibile che ci sia il lupo del martedì. Oggi certo. È il primo maggio e allora festa. I lupi se ne sbattono del calendario. Tenente Drago. I lupi seguono solo la natura, Tenente Drago. E quindi... No, ma per piacere, tocca quella mano. Tenente Drago, è la mia natura. Che grana padana! La torniamo grana. Domani, sempre quel gioco lì. Per chi se lo fosse dimenticato, cioè trovare delle... delle assonanze, Drago, delle assonanze. Grazie, Tra. Okay. Torniamo domani e delle altre parole che suonano così, tipo ce l'ho la falana! Forse l'ho la falana come Honecker, Ceausescu, no, non lo so. Anche l'ho la falana? Non lo so.